quasi tutti ormai fanno la rinoplastica, quasi tutti intervengono nel vivo, quasi tutti si spostano all'estero, quasi tutti ridiventano poveri, quasi tutti ricchi sono alla frutta, quasi tutti i poveri fanno la guerra tra poveri, quasi tutti i malati muoiono, ma quasi tutti quasi morti qualche volta risorgono, quasi tutte le merde in bilico cadono miseramente o cadono non miseramente, quasi tutti i denominatori comuni dividono sul più bello. Quasi tutti lo sanno, quasi tutti hanno delle conoscenze, quasi della sapienza, quasi tutti i dividendi sono spariti dal bilancio molto prima, quasi tutti in linea di massima, quasi tutto è successo molto prima, quasi tutto era già finito quando sei arrivato, quasi tutto in linea di massima, quasi tutti constatano una cosa, quasi tutti la contestano prima di passarla alla discussione, quasi tutti ormai preferiscono l'Africa, quasi tutti hanno pronto il bagaglio, quasi tutti preferiscono spedirlo, quasi tutti si fidano poco, quasi tutti sono depressi, quasi tutti lo sanno, quasi tutti lo saranno, è questione di minuti, quasi tutti sono nemici di quasi tutti hanno il nemico in casa, quasi tutti li conosci, quasi tutti erano qui quando sei arrivato, quasi tutti insistono sulla differenza, quasi tutti non è facile che prendano il mutuo, quasi tutti lo prendono, quasi tutti sono criminali, quasi tutti di guerra, quasi tutti hanno deciso, quasi tutti hanno preso la decisione decisiva, quasi tutti sono di parola, quasi tutti no, ma quasi tutti lo intuiscono, quasi tutti sono distratti. Quasi tutti non notano la differenza, quasi tutti invece sì, quasi tutti sono così, quasi tutti sempre come capita, quasi tutti senza ordine, quasi tutti sono nella sociologia, quasi tutti hanno i loro orari, quasi tutti salutano con la destra, quasi tutti pensano di farcela, quasi tutti devono farsi ripetere alcune parole, non tutti, quasi.